America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington, Mario Platero che vi saluta alla chiusura di un altro vertice. Anzi, in realtà abbiamo avuto negli ultimi giorni un rapido 1-2, una firma giovedì scorso coi russi al vertice di Praga per la riduzione di armi atomiche, l'adesione ieri a Washington di 46 paesi a un progetto per garantire la sicurezza del materiale radioattivo, la minaccia più grave con cui ci confrontiamo per un attacco atomico. Barack Obama ha dunque affermato la sua nuova dottrina nucleare, l'ha codificata in un comunicato in 11 punti sottoscritto da tutti e in un piano d'azione. Successo sì, completo direi, non necessariamente, perché restano ancora molte incertezze. Ad esempio, l'accordo non è vincolante e il presidente americano trova nell'interlocutore cinese un osso duro, doveva risolvere alcune questioni con Hu Jintao, in realtà le ha risolte solo in parte. Ma vediamo alcuni dei risultati concreti sulla questione del controllo di uranio arricchito e plutonio, due degli elementi perseguiti dai terroristi per costruire una bomba atomica da usare contro l'Occidente. L'Ucraina cederà il suo uranio arricchito, il suo plutonio separato alla Russia, che lo riprocesserà e lo metterà al sicuro. L'America finanzierà l'operazione. Messico e Canada invece daranno il loro uranio all'America, seguendo la stessa procedura annunciata dal Cile pochi giorni fa. E questo insieme di accordi ci dà l'idea di quella che sarà la strada maestra per cercare di garantire da una parte la custodia di questi materiali e dall'altra una certa creatività nel riutilizzarli, e cioè quella di rinunciare ai materiali per trasformarli in materiale a bassa radioattività utile per alimentare impianti nucleari. E dunque Russia e USA che detengono le più grosse riserve, come hanno contribuito alla soluzione di questo problema? I'm pleased that the United States and Russia agreed today to eliminate 68 tons of plutonium. La Russia, come dice il presidente Barack Obama, ha annunciato ieri la chiusura di un impianto in Siberia che produce plutonio, e insieme Russia e Stati Uniti hanno annunciato che rinunceranno a loro volta a 68 tonnellate di plutonio. In altri tempi questo plutonio avrebbe prodotto 17.000 testate atomiche. Oggi, riciclato, produrrà elettricità per la popolazione. A number of countries, including Italy, Japan, India and China, will create new centers to promote nuclear security. Lo sforzo per evitare che i terroristi possano mettere le mani su materiale che gli consente di costruire una bomba atomica deve essere a tutto campo, al di là della sottoscrizione di un documento che c'è stata ieri a Washington, che dovrebbe consentire ai paesi membri, a questi 46 paesi che hanno partecipato al vertice, di far sì che l'obiettivo possa essere raggiunto entro 4 anni. Ci sono anche iniziative leggermente diverse. Vi avevo anticipato ieri che il nostro paese avrebbe costituito una scuola per l'addestramento di personale specializzato nel controllo di materiali radioattivo, una scuola destinata soprattutto a studenti, allievi di paesi emergenti. Ebbene, non solo l'Italia, ma anche la Cina e il Giappone lanceranno progetti simili. The Chinese have sent official representative to negotiations in New York. Questo è uno dei limiti, lo avete sentito dalle parole di Barack Obama. Cerca il presidente americano di essere ottimista, ma in questo comunicato finale e nel documento che prevede un programma di lavoro non si parla di Iran, non si parla delle violazioni del diritto internazionale in materia nucleare di Teheran. Però devo dire che il fatto stesso che ci sia stata una coesione di questo gruppo di 47 nazioni, è un fatto che in qualche modo parla da solo. L'Iran è isolato, che lo si dica esplicitamente o meno, Teheran si trova sempre più ai margini. Uno dei punti da risolvere ovviamente riguarda la Cina. Obama sostiene che Pechino abbia accettato di discutere le sanzioni in seno alle Nazioni Unite. C'è da chiedersi se poi alla fine le approverà, come le approverà. La Cina ha accettato di nominare dei negoziatori in seno alle Nazioni Unite, ma il presidente americano, quando l'abbiamo visto ieri pomeriggio, ha ammesso che il negoziato sarà durissimo e molto pragmatico e realista. Beh, durante l'incontro con Hu Jintao abbiamo saputo ieri che si è reso conto di questo problema cinese, di questa così necessità di evitare che siano chiusi i rubinetti del petrolio, e dunque ha offerto alla Cina di garantire l'intera fornitura di cui ha bisogno Pechino se l'Iran, dopo le sanzioni condivise naturalmente dalla Cina, dovesse fare le bizze. La partita ora passa a New York e alle Nazioni Unite. I think China rightly sees the issue of currency as a sovereign issue. Quando dicevo che la Cina è un osso duro, non lo dicevo in modo casuale. Pechino resiste, ha resistito nei confronti di Obama anche sul fronte valutario. Decideremo noi quando e come riorganizzare il nostro meccanismo dei cambi, ha detto il presidente cinese Hu Jintao al presidente americano. Ebbene, in questo braccio di ferro durato circa 24 ore, alla fine l'ultima parola, non necessariamente efficace, perché poi Obama potrà decidere fino a un certo punto, anzi non potrà decidere per nulla quello che succede a Pechino, però ecco che è riuscito ieri pomeriggio a così riportare dalla sua parte la questione retorica. Il presidente americano ha detto che non si trova d'accordo con quello che ha detto Hu Jintao, ritiene che sia al contrario di quello che ha detto il presidente cinese nell'interesse di Pechino rivalutare lo yuan. Questo perché ci sono, dice Obama, delle ragioni economiche molto specifiche. Occorre accompagnare il passaggio dell'economia cinese da una struttura completamente dedicata all'esportazione, su cui poggia la crescita, a un'economia che invece sarà sempre più trainata dai consumi esterni e che quindi comincerà ad avere una sua dinamica di equilibrio abbastanza normalizzata. E dunque il presidente ritiene che il rafforzamento dello yuan sarà un passaggio indispensabile per compiere quel passaggio. Non solo, il presidente americano anticipa che un rafforzamento dello yuan eviterà anche il pericolo della creazione di bolle che poi inevitabilmente esplodono e creano dei problemi. Ma in questo braccio di ferro devo dire che anche Hu Jintao ha risposto per le rime al presidente americano, perché in qualche modo l'ha provocato. Ha detto che evidentemente Barack Obama è molto preoccupato dalla disoccupazione interna, ma ha sottolineato che la disoccupazione americana non migliorerà se lo yuan si rafforzerà, ci vorranno ben altre misure, ed ha chiarito che la scelta di Pechino è politica, una scelta che riguarda la Cina e non gli stranieri. Unica concessione, secondo me abbastanza interessante, è stata quando Hu Jintao ha detto che la Cina importerà di più dall'America. Ecco, questo messaggio congiunto è un messaggio, secondo me, al Congresso, che sta considerando l'ipotesi di imporre tariffe contro la Cina. Il mio governo ha potuto approvare un nuovo programma per la costruzione di centrali nucleari ad uso civile. Avete appena sentito una parte dell'intervento del nostro Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi davanti ai leader che hanno partecipato a questo incontro, e fra le altre cose Berlusconi ha parlato dei progetti nucleari italiani. Ecco, vorrei sottolineare che sono dei progetti, secondo me, essenziali. Eravamo avanti fino a una trentina d'anni fa, ora ci troviamo indietro. Abbiamo perso alcuni decenni per un referendum motivato più da fuffa emotiva, secondo me, che da realismo pragmatico. Quando si trattò di andare a votare, c'era l'incidente di Chernobyl, la grande nuvola che in qualche modo agitava i nostri animi. Beh, sono passati molti anni, la sicurezza è migliorata, ci rendiamo conto che in vertici come questi si cerca proprio di garantire la sicurezza anche degli impianti nucleari e dei residui radioattivi, dei carburanti che alimentano poi queste centrali nucleari, e dunque non c'è tempo da perdere. Io spero davvero che il governo vada avanti, anzi secondo me sta già un po' rallentando. Ho sentito che ci possono anche essere alcuni problemi di tipo giuridico, che forse la stessa Corte Costituzionale potrebbe intervenire se sollecitata, come lo è stata da proteste da alcune regioni. Potrebbero davvero esserci dei rallentamenti e sarebbe un disastro. Bene, lasciamo lo scenario washingtoniano, internazionale, per tornare a qualche cosa di più propriamente interno, americano, un'asta a Los Angeles su alcuni oggetti di Marilyn Monroe, ma oggetti molto particolari o oggetti strani che sono appartenuti all'attrice. Per esempio, una radiografia del torace della star che risale al 1954. Quest'asta si terrà il 27 giugno al Planet Hollywood Resort and Casino di Las Vegas, e questi raggi, questa lastra che fu presa da un giovane dottore a Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles, dove la Monroe doveva essere operata per endometriosi, ha un prezzo base di $1,200. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, l'ho scelta per restare in tema. La canzone è degli Orchestral Maneuver in the Dark, Enola Gay. Bene, da Washington è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento domani a New York. Torneremo in sede. Goodbye and get going.